Certo, potrei dirtelo, sì, ma poi non saresti più te. Cosa ti aspetti da me? Non chiedermi la verità. E se così fragile, vuoi che ti parli? Perché le parole sono nulla, vibrano nel loro tempo, passeggiando incerti e apportiamo l'eco, un trucco di scena per la nostra favolosa recita. Ruota la ruota, cariola, fatti prendere e condurre, colmeremo di sostanza degli amici senza sensi o paure o ponzi. E se la vita è una lotteria, questo è il nostro contributo all'allegria, i nostri giorni insieme e alla follia, di quel sì detto e da ripetere ancora, ancora, ancora, ancora. Dici, resterò lo stesso, la comprensione cambierà, cambierà anche questo, ma camminare insieme è un viaggiare più leggeri. E se la vita è una lotteria, questo è il nostro contributo all'allegria, i vostri giorni insieme e alla magia, di quel sì detto da ripetere ancora, ancora, ancora, ancora. Ma se la vita è una lotteria, questo è il nostro contributo all'allegria, i vostri giorni insieme e alla magia, di quel sì detto e da ripetere ancora, ancora, ancora, ancora.